Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. È carnevale anche in Africa e a scuola, come in tutte le scuole del mondo, hanno deciso di fare una grande festa con tutti i bambini. D'obbligo allora pensare a vestirmi in maniera diversa. Ciao, sono Paolo, vengo da Milano, ma sono nato in Libia, ho vissuto in Kenya, in Arabia Saudita, negli Emirati. Mi piace molto girare per il mondo e la storia che vi racconterò è dedicata ai miei due figli, Carolina e Matteo, e a mia moglie Cristiana. C'è questo bambino che vive a Bergamo, o in provincia di Bergamo. Viene da una famiglia molto povera, anzi solo la mamma è molto povera perché è vedova e lui il babbo non l'ha mai conosciuto. Arrivano i giorni di carnevale e a scuola, nella scuola di Bergamo che lui frequenta, la maestra decide di organizzare una festa di carnevale. La festa di carnevale ovviamente è una festa in cui tutti si devono travestire e tutti i compagni di questo bambino sono felicissimi perché possono scegliersi dei costumi colorati e diventare delle altre persone da quelle che sono di solito, no? A questo serve il carnevale. Questo bambino però è molto triste perché sa che la mamma è molto povera e quindi non ha i soldi e quindi non potrà avere un costume di carnevale. Le mamme degli altri bambini lo vengono a sapere e che cosa fanno? Portano gli avanzi dei costumi che hanno fatto i loro figli alla mamma di questo bimbo che la notte prima del martedì grasso, cuce per suo figlio un abito splendido fatto di tutti i pezzi, un abito patchwork si direbbe oggi, di tutti i pezzi dei costumi degli altri bambini. E quando arriva a scuola il martedì grasso, lui è accolto con fragore, con gioia, con un applauso, perché il suo vestito non solo è il più bello ma è anche il più originale. Quel bambino si chiama Arlecchino e questa è la storia di Arlecchino, è la spiegazione che arriva e che viene data a quel costume, al costume di Arlecchino, che è una delle più famose maschere della commedia dell'arte, che è lo Zanni eccetera eccetera, che è una maschera bergamasca, ma che soprattutto è una delle maschere più frequentate, o perlomeno era più frequentate quando io ero un ragazzino, quando ero un bambino e andavo alle feste di carnevale. Buongiorno a tutti, oggi è il 9 di settembre del 2014. C'ho sempre 13 in punta, non so perché, c'ho sempre il 13 in punta. Questa è sempre Radio 24, non è carnevale, ma oggi raccontiamo una storia che parla di carnevale, una storia che ci è arrivata quest'estate, come tutte quelle che sono arrivate e che manderemo in onda nel corso di quest'autunno. Intanto ne continuano ad arrivare, voi continuate a mandarle, voi siete qui, @radio24.it. È arrivata quest'estate questa storia con questa mail, ci tengo a leggere, l'aspettabile redazione e Federico. Federico immagino di essere io, non essendoci nessun Federico in redazione. Ringraziandovi per l'interesse del mio racconto, vi giro alcuni dei ricordi legati a un'esperienza di vita in Kenya, paese in cui da piccolo ho avuto la fortuna di vivere per alcuni anni. Il titolo di questa puntata è L'astronauta e il serpente, quindi un po' ci ha spiazzato quando l'abbiamo letto. Poi abbiamo capito che era un racconto che era ambientato in Africa, ma che parlava di carnevale e di abiti da carnevale. 349-238-6666, siamo in diretta se avete voglia di raccontarci non tanto il vostro odio per il carnevale, che appena cita il carnevale tutti raccontano quanto lo detestano, ma semplicemente il vostro abito di carnevale più assurdo, come quello di Mariangela. A 18 anni mi sono travestita da panda, le mie compagne delle superiori ancora se lo ricordano. Presa per il culo per anni. Marco, il mio vestito migliore da cappellaio matto, 2 anni fa, opera della mia amica Chiara, alla quale avevo detto: fai del mio volto ciò che vuoi. Che mi sembra comunque rischiosa come affermazione. 349-238-6666. Stefano, da quando ho 20 anni mi travesto tutte le volte che faccio cosplay. Mi vesto da fumetto. Il bello è quando ti riconoscono e ti chiedono la foto. Ti riconoscono in quanto fumetto o in quanto Stefano? Cioè, ti dico: Stefano, ma sei tu? Facciamo una foto? 349-238-6666. Susanna, da carota, enorme sacco arancione, ciuffo di erba in testa, faccia e scarpe arancioni. L'avete fatto anche voi? Avete avuto il coraggio di farlo? Vi siete travestiti? 349-238-6666. Erano tanti anni fa, era in un altro continente. Questa è la storia di Paolo. È carnevale anche in Africa. E a scuola, come in tutte le scuole del mondo, hanno deciso di fare una grande festa con tutti i bambini. Elementari e medie quest'anno saranno tutte insieme nella stessa festa. D'obbligo allora pensare a vestirmi in maniera diversa. Sento la mamma: perché non vestirti da pilota? Dice lei. Sì, mi sarebbe piaciuto, ma ho sentito che già qualcuno dei miei compagni si vuole vestire da pilota, rispondo io. Sento il papà, mi dice: prova a vestirti da astronauta. Loro volano più in alto dei piloti. Grande idea, papà. È vero, loro sì che sono spaziali. Deciso, mi vestirò da astronauta. Eravamo in Kenya perché mio papà, per ragioni di lavoro, ha dovuto trasferirsi lì. Ho vissuto per tanti anni, 5, in Kenya, con la mia famiglia, con mia madre, mio papà, mia sorella e tanti amici. Decidiamo di cercare il costume in un negozio. L'unico che potrebbe essere fornito per queste cose è in centro, vicino alla torre con il fungo e agli uffici dell'Alitalia. Nel negozio in questione ci sono in effetti molti costumi. Cerchiamo tra gli scaffali. Ecco un bel costume da pilota militare. È proprio bello, ha un sacco di stemmi. Purtroppo però non ci sono vestiti da astronauta. La situazione è disperata, serve una soluzione. Mi metto quasi a piangere. E allora ecco che arriva il commesso del negozio. Mi chiede che cosa c'è, se può aiutarmi. Gli spiego: io voglio fare l'astronauta a carnevale, ma qui non avete un costume da astronauta. Lui mi guarda un po', vedo che pensa, poi mi dice: aspetta qui un momento, forse ho qualcosa che fa per te. Dopo pochi istanti torna sorridente. Eccolo qua, questo è per te. Non è bello? È vero, è un vestito da pompiere, ma ha sempre la tuta e il casco. Tua mamma ti può cucire qualche stemma di quelli che abbiamo qua. Vedrai che bello che diventa. Sono felicissimo. Il vestito da pompiere è rosso, ma sembra davvero quello di un astronauta. Mamma lo compra, poi in macchina mi dice: se vuoi ti faccio anche gli stivali da astronauta. Ci penso io. Arriva il giorno della festa. Dopo pranzo vado contentissimo in sala giochi per vestirmi da astronauta. Mi metto prima la tuta, poi i guanti di gomma che mamma usa per lavare i piatti e eccoli là, gli stivali da astronauta. Fantastici sacchetti di plastica ricoperti da carta argentata. Scendiamo dalle scale per andare verso la cucina e poi nel box a prendere la macchina e poi via verso la scuola. Arriviamo in poco meno di mezz'ora. Scendo, subito mi dirigo verso gli amici indossando anche il casco ignifugo. Guardate, sono un astronauta. Noto che in effetti la mia tuta e il mio casco fanno colpo. Iniziamo a giocare, a correre, a divertirci. Ecco però che a un certo punto comincio a sudare. In effetti con 25 gradi fuori e 50 dentro la tuta da astropompiere, con gli stivali di plastica e il casco ignifugo, la situazione è abbastanza bollente. Tolgo stivali e tuta, è un'altra vita. Torno a giocare con gli altri bambini dopo aver saccheggiato il tavolo con le torte fatte dalle mamme. Alla fine, con la pancia piena, tutti quanti concordiamo per una bella partita di pallone senza costumi di carnevale. Il gioco si fa duro, la palla è rotonda, noi bambini ci impegniamo con i nostri schemi di gioco. Poi, a un tratto, un urlo. Da lontano. Ci fermiamo e vediamo, in fondo, verso l'edificio della scuola, una mamma correre via al grido di un serpente, un serpente. Pur essendo dentro in, come dire, in Nairobi, Kenya è la capitale, ed è una zona, come dire, civilizzata, non è che sei in mezzo alla savana, però effettivamente stando comunque in un paese che è anche abitato da animali, capitava quindi di avere a che fare ogni tanto con questo tipo di incontri, ma devo dire è stato più unico che raro nel mio caso. Ricordo solo a questo punto che con sommo sprezzo del pericolo noi bimbi ci fondiamo a vedere, rincorsi ovviamente dalle sorelline e dalle mamme. Arriviamo giusto in tempo per vedere il guardiano tutto sorridente e soddisfatto. In una mano vedo che ha il panga, una specie di machete africano. Nell'altra una biscia verde che a scatti si muove per liberarsi dalla presa. È una scena cruda per me, forse come quelle che solo l'Africa può dare. Lui ci vede, si avvicina, ci mostra la preda, l'arma e poi tac, un colpo secco ed ecco mezzo serpente. La scena che segue è prevedibile, un silenzio di tomba. Poi, da qualche femminuccia, le prime grida di terrore, poi il gran fuggi-fuggi. Restiamo lì, qualche amichetto ed io e il guardiano, che ride. Apre la bocca e vedo che non ha molti denti. È magro, ha i pantaloni larghi e la faccia nera nera, fa quasi paura. Ero partito per fare l'astronauta e quel pomeriggio, forse, avevo trovato un marziano. Mother Nature gave us the breath. She doesn't need to go biotech. She's giving you the science in the night. chiaramente in ufficio Paolo nella foto che ci ha mandato, che trovate sul nostro sito radio24.it. Ha su una camicia azzurra da ufficio, una cravatta a righe piuttosto da ufficio, ma da ufficio, e soprattutto la parete bianca alle sue spalle. Pronto Paolo? Ciao Matteo. Adesso mi dici che non sei in ufficio in quella foto, io ci faccio una figura orribile. Ci sei quasi vicino, no, scherzo. dove sei invece in questo momento? Sono un attimo fuori ufficio. Sì, appunto, sei uscito per la telefonata. Mi ricordi che mestiere fai? Io sono un impiegato e in questo momento però devo dire che il mio più grande lavoro, il più bel lavoro è quello di fare il papà. Poco ho avuto dei bimbi, una bimba di 2 anni e mezzo, Carolina, e il 7 luglio un altro bimbo di nome Matteo. Ah, quindi freschissimo proprio. Freschissimo, ho 45 anni, ma insomma sono un giovane papà. Ma questa sai è la generazione dei padri quarantenni. Senti, lo dico io che ce n'ho 39. Paolo, a parte che è arrivato un messaggio fantastico di Martino che dice: ciao, sono Martino, 8 anni, a carnevale mi sono travestito da mezzo bambina e mezzo bambino e ho vinto il premio della originalità. Sto ascoltando sull'auto del mio papà Claudio. Per fortuna, Martino, temevo che stessi ascoltando sulla tua di auto, che a 8 anni non riuscivo ad immaginare. Paolo, invece, andiamo in Africa un secondo. Quanto ci sei stato in Africa? Beh, ci sono stato 4 anni, è stata un'esperienza di vita intensa e sicuramente una di quelle che ti fanno tornare cambiato, quello che poi alla fine... Quanti anni avevi più o meno? Beh, dunque, quell'epoca ero, mi ricordo appunto, un giovane piccolo con 4 anni alle spalle, ho fatto un po' di asilo e poi alcune parti della scuola elementare. Dell'elementare, quindi a 8-9 anni sei tornato in Italia? Sì. Perché chi lavorava là? Tuo papà? Mio papà lavorava esattamente in cantieri, quindi noi con la famiglia lo seguivamo. Era un ingegnere o era un... Beh, diciamo che la laurea in ingegneria se l'è guadagnata sul campo. Ok, era specializzato, immagino. Sì, era uno di quei famosi tecnici periti che oggi, ahimè, non si trovano più. E che tipo di cantieri, su che cantieri lavorava? Grandi, diciamo, opere? Che lui lavorava sulle... diciamo sui cantieri che erano di stampo elettrico, quindi sugli impianti elettrici, sulle centrali elettriche. Qua mi fa sempre effetto quando pensare al clima che c'è in posti diversi dal nostro, nel senso che quando qua ci sono 2 gradi ti fa strano immaginare, anche se il mondo è fatto così perché gira e ha un asse più inclinato dell'altro, quindi più vicino al sole dell'altro, ci sono invece 30 gradi, e infatti tu dici che a carnevale c'erano 25 gradi a Nairobi. Sicuramente nella mia tuta saranno stati anche più di 50. Senti, e la vostra vita era com'era? Era normale? Andavi a scuola, poi uscivi? Sì. Uscivi? Dove va un bambino di 6 anni a Nairobi? Dagli amici? Un po' tutti, esatto, mamma dipendenti o scuola dipendenti, nel senso che la tua vita è dettata e improntata a quelli che sono i ritmi della scuola, e quando si era in vacanza d'estate, magari esperienze in kindergarten piuttosto che presso altri amici dove si stava sempre assieme. Quindi ecco, diciamo che non ci si è annoiati. Lo immagino. Ci sei più tornato in Africa? No, e il famoso mal d'Africa devo dire che esiste. Sì, guarda, avevo in mente di chiedertelo, però mi immaginavo che forse per un bambino potesse non esserci, invece no, mi dici che c'è. Sono d'accordo con te Matteo, esiste e penso che tutti quanti quelli che sono stati là lo potranno confermare. Senti, invece tu ci hai mai dato diversi racconti, poi noi ne abbiamo scelto uno perché gli altri erano tutti molto belli, ma questo ci piaceva particolarmente. C'è però un ricordo, è vero che eri un bambino, no? Io non so quanto mi ricordo di quando c'avevo dai 4 agli 8 anni, però proprio una roba che ti è rimasta e che ancora nella tua vita oggi a 45 anni senti che ha a che fare con te, che ti è accaduta là, un ricordo, una sensazione, il modo di vivere, il modo di interpretare il mondo, la vita, il tempo. Sì, è proprio quel tornare cambiato che alla fine mi ha aiutato a confrontarmi, e questo oggi mi è molto importante anche dal punto di vista professionale, a confrontarmi con gli altri, con il diverso, non solo con il mio io, ma anche con quelli che possono essere bianchi, con quelli che sono neri, quindi superando tutte quelle differenze che ci possono essere in termini di razza, di lingua, di cultura, cosa che oggi il nostro mondo globale ci impone, no? Beh certo, Paola, sta dormendo sto bambino oppure la notte vi fa dormire o... il bimbo è bravissimo. Mangia tantissimo. Perfetto. Chiaramente magnifico. Nostro... Sei un padre felice. Sei, si sente dalla voce che sei proprio. Forse, grazie. forse questo è avere i figli in età più avanzata, no? Questo lo guadagni. Il fatto che te lo godi completamente. Invece, se ce l'hai magari a 25, non so quanti ci abbiano avuto figli a 25. Mio padre ha avuto mia sorella che ne aveva 25. Forse non l'ha vissuto in questo modo così, con tutto questo trasporto. Ti faccio i migliori in bocca al lupo, Paolo. Grazie di tutto. Ciao, grazie, ciao, a presto. Matteo, grazie. Ciao, ciao, ciao. Perché nella storia di Paolo ci sono due delle cose che mi fanno e che mi hanno fatto più paura in generale nella vita, che sono i serpenti e il carnevale. Per quanto riguarda i serpenti ci sto lavorando e forse ho capito che cos'è che mi spaventa e mi fa così tanto ribrezzo. In alcuni casi addirittura i serpenti mi piacciono. Niente, col carnevale invece il rapporto è semplicemente cambiato, cioè ormai non mi interessa più, non lo frequento e amen. Da ragazzino però... quell'aria lì, quella di libertà in cui valeva tutto per le strade del mio paese all'epoca, mi spaventava da morire. Lo scorso carnevale sono passato da casa dei miei e ho visto una scena che mi ha ricordato esattamente perché da bambino ero così preoccupato ad affrontare quei giorni di festa mascherata. Sono affacciato al balcone di casa dei miei. Sono a Romentino e guardo la strada. Ci sono delle vere e proprie scorribande di ragazzini che urlano, si picchiano manganellate e si riempiono di schiuma da barba. In questo momento, ad esempio, c'è un bambino vestito da cowboy che sta spruzzando la schiuma sul cofano della macchina di mia madre. Anzi, più che spruzzarla, con la schiuma ci sta disegnando un pene enorme sul cofano. A me viene da ridere e lo guardo all'opera. Avrà circa 10 anni. Ha i capelli corti, gli occhi svegli. Il cappello da cowboy gli pende sulla schiena e il legaccio gli tira così tanto il collo che quasi lo strozza, ma lui se ne frega. Mentre disegna sta roba enorme sul cofano, si guarda alle spalle di continuo per paura che qualcuno lo veda. Non so se una settimana fa o la settimana prossima avrebbe mai fatto quella cosa lì. Eppure oggi è carnevale e quindi si sente liberissimo di farlo. Arriva un altro bambino, è vestito da infermiere, credo, o da medico. Il cowboy gli si avvicina e gli dice che ha un costume di merda. L'altro fa finta di niente, passa oltre. Lui molla il cofano dell'auto e comincia a spruzzargli la schiuma da barba negli occhi. Non in faccia, proprio negli occhi. L'altro si mette a urlare e il cowboy gli dice: tanto sei un medico, no? Quindi ti puoi curare da solo. Oh, cowboy, smettila! Gli urlo dal balcone. Lui alza gli occhi, mi vede e mi mostra il dito medio della mano destra. Io faccio lo stesso e lui mi mostra anche quello della mano sinistra. Io non voglio essere da meno e raddoppio pure io con l'altra mano. Frocio! Mi urla lui. Ok, adesso scendo. Scendo le scale di corsa, esco dal cancello di casa e lo vedo già in fondo alla strada che si tira giù i pantaloni e mi mostra le chiappe. Io mi giro verso il piccolo medico pieno di schiuma e gli do una mano a toglierla dagli occhi. Ecco, non è successo nulla, nulla di che intendo, ma nella mia mente il piccolo medico ero io a 10 anni. E alla fine, dalla storia di Paolo, ho capito che 1. Il carnevale in Kenya è molto più rock and roll che in Italia. 2. Il costume di carnevale dura giusto fino a quando non spunta un pallone per fare una partita. 3. I serpenti non sono mai proprio ben visti da nessuno. 4. I guardiani africani sono molto più spaventosi di quelli italiani. E 5. Alla fine, tra astronauti e pompieri, non c'è molta differenza. Sono vestito da fatina fino ad un paio di anni fa a carnevale. Ah, dimenticavo, ho 50 anni, sono alto 1,85 e mi chiamo Francesco, sempre grandissimo successo. E ancora, mi sono travestito alla doccia di carnevale a metà degli anni 80, Però quello era preso da quel film, da Karate Kid, mi pare, no? Che lui a un certo punto si vestiva da doccia per non farsi vedere e andare ad una festa di carnevale e conquistare la sua amata. Ma soprattutto il miglior messaggio di oggi è: travestita da Pazzaglia. Pazzaglia era il libro d'italiano del liceo. Gomma piuma, nastro adesivo e tanta fantasia. Bellissimo. C'è un ritorno al carnevale oggi, che è il 9 di settembre. Se volete riascoltarvi questa puntata a carnevale, ad esempio, potete scaricarvela in podcast oppure andare a cercarla in streaming sul sito di Radio 24, o altrimenti frequentando i nostri profili Facebook. Voi siete qui Radio 24 o Voi siete qui R24 è il profilo Twitter. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Margherita Ina. Grazie soprattutto a Paolo. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Ciao, sono Simone, sono di Novara e la storia di domani sarà la mia, e parla di come trasformo il legno, di come uso le viti e di come uso i fiori viola per abbellire quello che ho intorno. Questa è la mia storia e io sono qui.